non cerca e non sogna la grande città, un dolce suon di zampogna e tanta pace nel cuore. Se vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna, è tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città, e svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, bacia la tua compagna che t'accompagna col suo marello, ogni figliolo un fiore nato sulla collina, bacia una dottina, che felicità, se vuoi goder la vita. E torna al tuo paesello che sei più bello della città. Fasci lucenti di grano sembra ogni falce un baleno, un sapore nostrano, profumo di pieno, di grappoli e fior. E la sorgente pian piano mormora un canto d'amore. Se vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna, è tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città, svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, e bacia la tua compagna che t'accompagna col suo marello, ogni figliolo è un fiore nato sulla collina, e bacia in una dozzina, oh, che felicità, se puoi godere la vita. E torna al tuo paesello che sei più bello della città.